In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli, gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Il Vangelo di oggi ci presenta la dimensione fondamentale, essenziale del cristianesimo, che è la preghiera. Innanzitutto ci presenta Gesù stesso, che prega e prega tutta la notte, si mette sul monte a pregare. Ci dà quindi proprio l'esempio di questa comunione viva e profonda con Dio Padre. E poi ci dice anche che tutti cercavano il contatto con Lui, cercavano di toccarlo, perché da Lui usciva una forza che guariva tutti. Non so se voi avete mai fatto un'esperienza vera di preghiera. Se non l'avete fatta, vi invito a farla. E che cos'è un'esperienza vera di preghiera? È quell'esperienza che ci rimane impressa nel cuore perché ci cambia, perché ci trasforma e ne abbiamo proprio una prova tangibile. Quante volte siamo angosciati, siamo affranti, siamo desolati, poi andiamo in cappella, ci mettiamo a contatto con il Signore e usciamo che siamo tranquilli, siamo sereni, siamo rappacificati. Ecco, perché questo? Perché veramente dalla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia esce una forza che guarisce tutti, che ci rende diversi. Spesso pensiamo che la preghiera non serve a niente, perché? Perché vediamo che chiediamo al Signore tante cose e poi non otteniamo quasi niente di quello che noi crediamo, chiediamo. Ma la preghiera non è mai persa, non va mai persa, perché la preghiera non serve per ottenere cose, ma serve per trasformarci, per essere diversi, per guarire, per assomigliare sempre di più al Signore. Allora, oggi vogliamo concentrarci su questo. Com'è la mia preghiera? La mia preghiera mi sta cambiando. E come faccio a vedere se sto cambiando? Come faccio a vedere se il Signore mi sta guarendo? Ecco, guardiamo un po' quali sono i nostri pensieri, quali sono i nostri desideri, quali sono i nostri intenti, quali sono i nostri scopi. Se dopo un anno, 2 anni, 3 anni di preghiera, io ancora desidero quello che desideravo all'inizio della vita spirituale, ancora faccio quello che facevo all'inizio della vita spirituale, ancora penso a quello che facevo prima di avere la vita spirituale, allora vuol dire che veramente il contatto con Dio forse è stato solo superficiale, solo apparente, solo emotivo. Perché? Perché quando si incontra veramente Gesù, il segno che l'abbiamo incontrato è proprio il cambiamento, un cambiamento che si fa visibile all'esterno, ma che anche noi percepiamo internamente se guardiamo quali sono i nostri pensieri, i nostri desideri, i nostri affetti. Allora, se il mio pensiero cambia, cioè se i miei pensieri diventano sempre di più i pensieri di Gesù, se i miei desideri diventano sempre più i desideri di Gesù, allora è segno che ho incontrato il Signore, è segno che sto guarendo. E non spaventiamoci se ancora non vediamo dei risultati così eclatanti. perché è con la perseveranza che guadagneremo le anime nostre, ce lo dice sempre il Signore. E la perseveranza, ricordiamoci che la perseveranza rende l'impossibile possibile, il possibile probabile e il probabile certo. Buona giornata.